Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Soundcheck numero 378 qui su Radio 24 dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e ancora una volta buonasera ai miei ospiti preferiti, ovvero Francesco Tromba in tutta la sua bellezza multimediale e la splendida Silvia Barba. Buonasera e bentornati. Ciao a tutti. Buonasera Gegè, buonasera a tutti. Siete i miei ospiti preferiti. Grazie. Ospiti fissi praticamente del programma. Beh sì, direi di sì, è un po' di tempo che è un po' di tempo, ci frequentiamo. Naturalmente gli amici a casa devono anche sapere che noi poi collaboriamo anche su altri versanti, per cui siete dei frequentatori ormai obbligati e forzati del nostro Groove Master Studio con tutte le cose che abbiamo da fare in questo periodo. Ma noi contentissimi di venire qua e di sentirci anche durante la settimana per scambiarci musica, idee, opinioni. Ma io parla per te. Vedi il Tromba com'è? Vabbè, perché lui è polemico, ormai si è creato questa cosa di questo personaggio. Ce l'ha con me quando io gli ho detto che gli toccherà prima o poi mettere a posto tutti i CD che ha tirato fuori dalla discoteca. No, siccome avrei notato che ci sono proprio delle pile di CD e di album da mettere in ordine, e la responsabilità è un po' la sua, perché proprio alla fine della passata stagione ha lasciato lo studio senza mettere in ordine. Mi è toccato fare un lavoro extra. Come si è permesso? Dopo tutto quello che tu hai fatto per lui? Beh, ma anche dopo tutto quello che lui ha fatto per me. Ecco. E non voglio neanche raccontarlo. No. Beh, se posso scegliere quale disco portare a casa, metto in ordine. Facciamo questo patto. No, lo puoi scegliere. Va bene, okay. Hai già fatto la tua selezione? Adesso vediamo cosa c'è, dai. Va bene, non perdiamo tempo ragazzi. Abbiamo molte cose da fare, molte cose da dirci e tanta musica da ascoltare. E oggi iniziamo la prima parte del nostro soundcheck accendendo i nostri umili riflettori su alcune colonne sonore che in questo momento negli Stati Uniti stanno andando per la maggiore. Non succede come da noi. Da noi ogni tanto qualche colonna sonora entra nelle classifiche discografiche, forse quasi mai, soltanto quando qualche compositore vince l'Oscar, oppure quando all'interno di qualche colonna sonora italiana ci sono delle hit che ormai erano già affermate, o no? Succede questo, vero? Sì, ultimamente forse Sorrentino è l'unico regista che poi può pubblicare la colonna sonora dei suoi film, dei suoi lavori e che ottiene un discreto successo, altrimenti solo Morricone. Ecco, Morricone certo, sicuramente. Sì. E invece negli Stati Uniti si scrivono colonne sonore importanti per film e non solo per musical, per esempio adesso sta andando fortissimo La La Land, e la colonna sonora è spettacolare, ma quello è un musical e gli americani hanno quel tipo di scuola per cui si scrive proprio musica per il cinema, si scrive musica per le immagini, si scrive musica per dare la possibilità a grandi artisti americani, perché in quel caso parliamo veramente di artisti completi, o no Tromba? Assolutamente completissimi, ballano, cantano, cosa che non facciamo noi assolutamente. Tu non sai ballare? No. No, neanch'io. Neanche cantare. Come spesso ha detto il mio amico Renzo Arbore, lui diceva che non ha mai ballato perché non ha mai trovato un tutù taglia 56. Giustamente. Bene, e ci sono dei film, io non li ho ancora visti perché non ho ancora avuto il tempo di andarli a vedere e neanche di rintracciarli in internet, visto che abbiamo anche questa opportunità, acquistando la visione, di vedere un film che sta spopolando negli Stati Uniti. Ce ne vuoi parlare? Sì, si chiama Hidden Figures, però in Italia è stato tradotto con Il diritto di contare. È una storia stupenda di cui in realtà non eravamo in molti a conoscenza. È la storia di una matematica afroamericana, Katherine Johnson, che insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson aiutano la NASA appunto alla corsa dello spazio, nella missione in cui va nello spazio John Glenn. Ecco, e naturalmente a realizzare la colonna sonora chi hanno chiamato, Silvia? Un altro campione che è Pharrell Williams. Ecco, non gli manca la creatività a Pharrell Williams, il gusto anche nello scegliere i collaboratori, e infatti il primo brano che vi facciamo ascoltare si intitola I See Victory, è la voce, una meravigliosa, la voce di una campionessa del gospel contemporaneo come Kim Burrell. Beh, io non ho mai capito se c'è proprio una scuola, sì, c'è una scuola sicuramente per chi vuole fare musical, anzi tutti gli artisti negli Stati Uniti devono essere preparati a questo tipo di possibilità. Se sei un grande cantante, prima o poi ti potrebbe capitare anche di partecipare a produzioni cinematografiche e quindi anche di ballare. Come si fa in questo caso, Silvia? Ci sono delle scuole? Vai a ripetizioni private? Entrambe le cose, perché sia nelle scuole dove gli adolescenti approcciano alle arti e quindi approcciano ad arti complete, possono specializzarsi in canto, ma poi fanno delle classi di musica, di ballo, di composizione, e poi quelli che possono ovviamente vanno a ripetizioni in scuole private. Quindi il pomeriggio io ho assistito a una mia amica che vive lì a New York, e durante l'orario scolastico hanno delle lezioni complete di musica, canto, ballo, eccetera. Poi lei prende lezioni private di canto e prende lezioni private di recitazione. Sì, quali sono i modelli? Dai, sono quelli, sono i Ginger Rogers e Fred Astaire. Quelli, i grandi musical di Broadway, Kelly, che hanno fatto la storia, ma ultimamente anche i cantanti pop sono molto accreditati, perché anche loro riconoscono che sono degli artisti completi, perché per suonare, cantare e ballare e per fare uno show come quello che fanno i cantanti ai pop, R&B e contemporanei, devi essere un artista completo. Un altro brano di punta della colonna sonora di Hidden Figures, Mary J. Blige con Pharrell Williams in Mirage. Soundcheck, il suono della musica. E poi c'è anche la produzione dei cartoni animati, no? I film d'animazione negli Stati Uniti vanno fortissimo, e lì si mette in moto una macchina veramente eccezionale di star che partecipano per il doppiaggio dei vari personaggi. A volte doppiare un personaggio di una produzione cinematografica di quel tipo, quindi di un'animazione, è proprio un vanto, è quasi un punto di arrivo anche per attori che sono accreditati. E quindi viene commissionata la colonna sonora a grandi compositori e vengono coinvolti alcuni nomi di prestigio, quelli che fanno proprio la storia della musica. In questo caso avrete senz'altro riconosciuto Stevie Wonder, un veterano che affianca una delle giovani star della canzone e della musica americana come Ariana Grande, qui per la colonna sonora del film Sing. E io voglio proprio andarla a vedere questo, ho perso l'occasione di andarla a vedere con mia figlia, lei lo ha visto, mi ha detto che è meraviglioso. Sì, ti leggo un attimo quali sono stati i doppiatori originali del film? Sì. Vai. Matthew McConaughey, sì, premio Oscar pluripremiato, certo. Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, ma anche Scarlett Johansson. Cosa che in realtà, vabbè, in Italia non succede più così spesso di avere appunto dei doppiatori così bravi, nel senso la scuola di doppiatori italiani è ovviamente formidabile, dai. Però nel senso gli attori non la fanno più. Una volta mi ricordo gli attori che doppiavano i film della Disney come Gigi Proietti. Parlando di doppiatori italiani, approfitto anche per salutare il mio amico Pino Insegno, che realizza su Radio 24 la domenica un programma che io seguo con grandissima attenzione, e prima o poi verrò a trovarti, mio caro Pino, se ascolti, perché abbiamo molte cose da dirci, e soprattutto ti voglio salutare, che anche perché sono anni che non ci incontriamo. Quindi Voice Anatomy, il titolo del programma di Pino Insegno su Radio 24 la domenica nel pomeriggio. Andiamo avanti, ragazzi, perché parlando proprio del musical, abbandonando però le produzioni cinematografiche, negli Stati Uniti ha spopolato ormai da qualche anno la produzione teatrale di un musical importante per la cultura afroamericana, ma importante anche per le nuove generazioni. Il tema è la storia di un signore chiamato Alexander Hamilton. Chi era Alexander Hamilton? Era uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, uno dei contributori fondamentali appunto alla scrittura anche della Costituzione americana. E quindi questo è un musical proprio tipico di Broadway. Che cosa racconta quindi questo musical, Silvia? Beh, racconta l'ascesa sociale appunto di un immigrato che dai Caraibi riesce ad essere una figura importantissima per la storia americana. E ti dico, quanto è importante poi la produzione di una, di uno spettacolo del genere che ha coinvolto davvero tantissime persone e che ha avuto un, oltre a tantissimi premi da un punto di vista, appunto i premi quelli che si danno ai musical, al teatro, ma ha vinto anche il premio Pulitzer nel 2016 come miglior drama e ha incassato la bellezza di circa 65 milioni di dollari. Che lavoro incredibile, pensa agli attori, no? Io ho visto un po' di tempo fa, sempre nel mio programma televisivo preferito, ovvero Jimmy Fallon Tonight Show, il protagonista del, di Alexander Hamilton, del musical, che era praticamente lasciato la produzione, che è stata affidata a un altro protagonista che non ce la facevo più, tutti i giorni per 2 anni e bisogna essere impeccabili perché lì c'è proprio un regime militare, no? C'è un regime militare, forse la domenica fanno anche doppio spettacolo. Può per essere. Cui c'è un apporto fisico e un investimento pazzesco tutti i giorni. Essere al top della forma non deve essere molto facile. Mi incuriosiva il fatto che Obama avesse partecipato più volte a questo, cioè avesse assistito più volte allo spettacolo. Mi chiedo se Trump, parlando della storia che in questi giorni, insomma, che in queste settimane si sta affrontando su appunto gli immigrati che hanno fondato poi invece la vera storia americana. Tu ti domandi se Trump sia andato a vederlo? Sì, me lo chiedo. Può essere, forse una visione privata. Fatto sta che la colonna sonora realizzata per il musical è una produzione hip hop strepitosa e ottenuto il grande successo lì in teatro, poi alla fine una band come i Roots ha riunito in studio di registrazione alcune delle star di oggi per tirare fuori un album secondo me eccezionale sotto tutti i punti di vista. C'è un grandissimo lavoro in studio, le composizioni sono bellissime, bellissime le melodie, molto varia la produzione, quindi non è noiosa, non è monotona, c'è dal rap gangsta fino alla melodia tipicamente pop, magari affidata a una voce come quella di John Legend, per dirne uno, ma c'è anche il nostro amico Chance the Rapper e ritroviamo qui Queen Latifah, che è diventata una star della cinematografia nera americana. La ritroviamo finalmente, torna a rappare perché come rapper è strepitosa e ve ne accorgerete in questo brano intitolato Satisfied da The Hamilton Mixtape per la produzione dei Roots qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Da Hamilton Mixtape, la colonna sonora del musical Hamilton, qui al Soundcheck di Radio 24, un'altra protagonista della Black Music di oggi, Jill Scott con Say Yes to This. Ragazzi, questo è un album fantastico, acquistate di Hamilton Mixtape se siete degli appassionati di musica, se siete appassionati di Black Music, ma anche di jazz, perché no? Ci sono delle canzoni bellissime, arrangiamenti che vi lasceranno a bocca aperta e scoprirete, se non li conoscete, i protagonisti della Black Music di oggi. Ci sono praticamente tutti. Sì, ci sono Busta Rhymes, Common, Aloe Black, Usher, ci sono veramente tutti. Chance Alicia Keys. Anche? Alicia Keys. Alicia Keys, sì, partecipa anche lei. Non so se in Italia potrà essere realizzata una versione italiana di Alexander Hamilton, mi sembra proprio di no, perché il tema... Non credo, poveri. Forse potrebbero realizzare e scrivere un musical su Garibaldi. Si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Perché no? Chissà la colonna sonora, però. Se magari appunto si mette un grande artista a scrivere delle canzoni, perché no? No, perché noi siamo stati bravi a realizzare l'edizione italiana di alcuni musical importanti, quelli che hanno fatto la storia del musical contemporaneo, a partire da quelli che avevano come protagonista John Travolta e Olivia Newton-John, tipo Grease, ma no? Anche Jesus Christ Superstar, abbiamo fatto Notre Dame de Paris, che è una produzione nata da un'idea di un italiano, di Riccardo Cocciante, ma anche ultimamente Vita, oppure Billy Elliot. Io l'anno scorso vidi Billy Elliot a Roma, che è un adattamento del famoso film, ma ce ne sono. Noi abbiamo una tradizione, perché comunque il Sette Spose per Sette Fratelli, Sistina Rugantino, di Roma, no? Come no? Garinè e Giovannini hanno fatto anche storia del musical italiano. Certo, lì la tradizione è un po' più... un po' più importante. Forse negli ultimi anni ce ne siamo anche un po' dimenticati, l'abbiamo un po' tralasciato questo settore. Beh, forse perché la gente non va a teatro anche. È vero, no? Anche questo. Bisogna stimolare la gente a uscire di più, a vedere un po' meno televisione, a comprare più dischi, più libri, a essere più attenta nei confronti dell'arte e della cultura. Partiamo da lì e poi iniziamo a realizzare anche belle produzioni di musical in teatro che hanno un costo, no? Sì, perché per dire, comunque quando fai un lavoro di qualità come è stato fatto in questo caso di Hamilton, veramente i risultati poi pagano. Assolutamente sì. Allora, Hamilton mixtape, ci sono ancora due brani che vorrei ascoltare se ce la facciamo. Questo è delizioso. Che bello. Dear Theodosia, la versione originale. Questa non è la versione originale, diciamo, questo è un arrangiamento che è stato poi realizzato per Francis and the Lights e la voce di Chance the Rapper che canta. Senti, canta come benissimo. Canta benissimo, con una voce che mi ha fatto venire i brividi. Dear Theodosia, e poi se ce la facciamo prima di andare all'informazione di Radio 24, un veterano come John Legend che ci fa ascoltare History Has Its Eyes on You. Ecco, la storia ha i suoi occhi su di te. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione puntualissimi dal Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck qui su Radio 24, sempre con Francesco Tromba e Silvia Barba, abbiamo parlato dell'importanza dei musical negli Stati Uniti e quanto è importante per un giovane artista partecipare a una produzione forte come quella realizzata sulla storia di Alexander Hamilton. Infatti è nato prima il musical a Broadway, è andato fortissimo, e poi i Roots in studio di registrazione hanno prodotto questo album che sta spopolando, The Hamilton Mixtape. Noi ve lo raccomandiamo, ma adesso cambiamo argomento. Passiamo a internet, sì. Cioè dall'importanza del musical per un artista all'importanza di internet per un giovane artista per promuovere se stesso. Quindi se sul palcoscenico del musical il giovane artista si fa le ossa, in internet trova sfogo per la sua arte. E c'è un piccolo evento mediatico da un po' di tempo che dà la possibilità ai nuovi talenti di esporre la mercanzia. Stiamo parlando di The Color Show. Un titolo, uno si potrebbe chiedere perché si intitola The Color Show, basta vederlo, perché? Sì, perché vengono messi in una stanza colorata gli artisti ad esibirsi. Sì, quindi Tromba, se ti invitassero a partecipare al programma, tu che colore sceglieresti? Forse il viola. Il viola? Sì. Ma tu lo sai che non è compatibile. Però visto che comunque già l'aveva scelto di grande. Ero sicuro, no? Silvia, tu che colore sceglieresti? Io sceglierei il blu, perché è un colore rilassante. Anch'io, sì, è vero. Sì, e dà soddisfazione. Allora, come nasce però The Color Show? Tutto nasce dal lancio di questa nuova rivista online, diciamo tra virgolette rivista, nel senso un nuovo spazio online a Berlino. Quindi per promuovere questo lancio di questo spazio in internet si è scelta appunto di chiamare degli artisti spesso al primo lavoro, ma in alcuni casi ci sono anche artisti che sono un po' più anzianotti come Craig David, per promuovere appunto questa nuova rivista. Allora io direi di ascoltare qualcosa proprio estrapolato da un appuntamento del Color Show. Questo è Barney Artist che chiede la collaborazione di Jordan Reich, ne abbiamo già parlato di questo ragazzo, anzi proprio la settimana scorsa abbiamo ascoltato qualcosa di nuovo di Jordan Reich, qui featuring la sua voce con Barney Artist in I'm Going to Tell You. E poi direi di passare, anche perché la durata è veramente minima, no? E questa è la nuova tendenza, Silvia. È vero, sì, e sono lo voglio, non solo i video, ma anche le composizioni. Noto che una volta superavano con grande facilità i 4, 5, 6 minuti. Questo succede ancora nel jazz nazionale, parlo del jazz italiano, perché invece gli americani hanno capito che per dare la possibilità a noi che facciamo radio di suonare la loro musica dobbiamo stare almeno sui 4 minuti. Non devono per forza tutti fare il solo nell'unico brano. Ecco, e soprattutto basta fare un chorus, due chorus di assolo fatto per bene, ok? Non sì. Siamo tutti Sonny Rollins e John Coltrane, d'accordo. Ricordiamoci questa cosa. Fatto sta che qui il brano dura 2 minuti e 22 secondi, direi quindi di ascoltare anche un'altra piccola cosa. Questo è Odyssey, il brano si intitola Thing, anche questo stiamo parlando di cose nuovissime, Tromba. Sì, lui in realtà è al suo quinto, sesto disco, nell'ultimo anno ne ha fatti tre, per dire, quindi comunque fa produzione infinita, allora, però cercando. È giovanissimo. Soundcheck, il suono della musica. Ci piace tanto e noi lo sponsorizziamo. BJ di Chicago Kid con Turning Me Up qui dall'album In My Mind, e domani sera lì allo Staples Center di Los Angeles ci sarà la consegna dei Grammy Award e noi tifiamo per BJ di Chicago Kid, che si ritrova insieme a Chance the Rapper o a Music Soul Child in alcune delle categorie per noi più interessanti. Quindi speriamo ce la faccia questo ragazzo, che come tanti ha iniziato a collaborare con i grandi artisti scrivendo testi, scrivendo canzoni, e poi qualcuno, anzi, ha avuto il coraggio anche lui di mettersi in proprio e di realizzare i suoi demo, e oggi si ritrova con una bella nomination al Grammy Award. Questa è una bella cosa, cioè si inizia una carriera proprio partendo dai fondamentali. Dai fondamentali, collaborando, facendosi, come dire, anche facendo la vera gavetta, scrivendo per altri, partecipando a show di persone e di artisti che sono già formati, e poi quando si è pronti si producono le cose personali, dei progetti nuovi e indipendenti. È una consuetudine, non è l'unico BJ di Chicago Kid. Assolutamente, anche John Legend, no? Anche che è diventato un campione di incassi, ha iniziato scrivendo canzoni per altri. Come no? E poi, adesso si quando ritrovano... lui presentava i provini, la storia è questa, lui presentava i provini, ho scritto questa canzone per te, non so, Brian McKnight, no? Okay. Ho scritto questa canzone per te, la cantava Brian McKnight e il producer faceva: ma il provino è più bello ma perché non te le canti tu le canzoni? È successo questo e succederà ancora. Però pensavo anche a quanto è importante internet oggi, che ha cambiato proprio le dinamiche, perché una volta per entrare per partecipare, entrare nella scuderia di una multinazionale dovevi essere bravo, ma in qualche modo dovevi anche essere presentabile fisicamente, no? Si diceva: ma quello è bravo perché poi in studio di registrazione fanno i barbatrucchi, lo intonano. Adesso tutto questo un po' esiste ancora, ma è stato messo un po' da parte, perché ci sono talenti spaventosi che pur con pochissimo budget a disposizione, con la testa e con la grande energia e l'entusiasmo che hanno, riescono a fare grandi risultati. Sì, i trucchi esistono ancora, però poi quando sali su un palco, cioè, sei solo tu da solo, quindi ovviamente se non conti, se non vali, la gente non ti seguirà più. Infatti, io sento, per esempio, non conoscevo bene Ariana Grande, l'ho conosciuta perché mia figlia è una sua fan. E che vuoi dire a una ragazza come quella? È fortissima. Niente, che brava, no, bravissima. È brava, quindi merita il posto che occupa in questo momento. Direi di ascoltare un altro protagonista di oggi. Ecco, questo è un brano molto particolare. Il disco, lo voglio anticipare, è difficile, è complesso. Cioè, ascoltare il disco di Jeff Parker... Però non è male. Ti sottopone a una... ci vuole una soglia di attenzione notevole. Sì, molto alto. Il brano che quindi ho selezionato per voi si chiama Cliché Jeff Parker, e il brano lo trovo molto, molto intrigante. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Compared to What è anche il titolo di questo album che hanno realizzato insieme due talenti, la veterana Sarah Jane Morris, che conosco da tanto tempo personalmente perché partecipò nel 1988 proprio alla prima edizione di Doc Musica e Altro, a denominazione di origine controllata, su Rai 2, lo ricordo bene, e poi un campione con la sua chitarra, anche lui è italiano ed è una star a Londra, si chiama Antonio Forcione, e io lo abbraccio con grandissimo affetto perché è un musicista che stimo tantissimo e che insieme a Sarah Jane Morris realizzano un album bellissimo, Compared to What. Sì, anche le cover che fanno non sono assolutamente banali, perché sono tutte delle rielaborazioni personali, quindi rispettano comunque l'originale, però ci aggiungono qualcosa di loro. Come racconta anche Sarah Jane Morris, loro si sono in realtà inseguiti per tanto tempo, nel senso che frequentavano gli stessi locali, suonavano negli stessi posti, però non si sono mai conosciuti fino al 2012, quando entrambi, arrivati in anticipo allo studio di registrazione che frequentano a Londra, sono andati a bere una cosa insieme. Lei ha preso un cappuccino e invece lui ha preso un tè, quindi si sono invertiti in un certo senso i ruoli. Ma come fai a sapere tutte queste cose? No, veramente Tromba? Questa cosa la devi... Ma hai chiamato, che fonti hai? Hai già chiamato Antonio Forcione e ti sei fatto raccontare la storia? No, c'è scritto sull'Ansa. Ah, c'è scritto sull'Ansa. Vedi, semplicemente. Ma io per questo voglio bene a Tromba, perché tu sai che tu avresti anche un altro lavoro pronto in canna, forse non ci hai mai pensato, quello dell'investigatore privato. Potresti guadagnare tantissimi soldi, Tromba. Beh, in effetti passo abbastanza inosservato. Agenzia di investigazioni Tromba. non fa una piega, naturalmente specializzato in incesti. Questo. Allora, Sarah Jane Morris è tornata con Antonio Forcione e devo dire, sono contento per Antonio perché ebbe l'intuizione di trasferirsi a Londra ormai tanti anni fa e ha centrato l'obiettivo perché si è guadagnato veramente una posizione di prestigio e di rispetto da musicista talentuoso e appassionato qual è. Ha una tecnica prodigiosa e ha sempre qualcosa di nuovo da dire con la sua con il suo strumento e la sua mentalità. Io ho visto dei concerti dal vivo, anche proposti in internet o comunque dei filmati, lui con band, con musicisti che arrivano da varie parti del mondo, che ne so, musicisti indiani, quindi la sua chitarra fusa col suono delle tabla e altre cose. È sorprendente quello che sa fare lui sul suo strumento. Tecnica, buon gusto, preparazione, davvero un talento. Sì, Antonio Forcione con Sarah Jane Morris qui al Soundcheck. Direi di ascoltare, come diceva Francesco, una cover, a me piace, mi è sempre piaciuto questo brano scritto da Sting, ma questa versione è splendida. Message in the Bottle, Sarah Jane Morris, Antonio Forcione al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Siamo in chiusura, siamo quasi per salutarci, ma questo era Miles Mosley con Abraham per la prima volta al Soundcheck. Mi sa che non abbiamo mai proposto il sound di questo signore. No, perché... Perché l'album è nuovo, è nuovo, stato appena pubblicato. Però l'abbiamo ascoltato perché lui ha collaborato, oltre che con Kendrick Lamar nel suo album To Pimp a Butterfly, ma con The Epic di Kamasi Washington. Anche. Sì, faceva parte della band e io l'ho visto dal vivo a Roma quando sono venuti a suonare a Roma. Lui è un bel personaggio. Chiudiamo sobri questa sera perché lui è veramente un animale da palcoscenico. È esplosivo, no? Sì, decisamente. Tanto che definisce il suo stile, la sua musica, Evie Soul, quindi il soul potentissimo di Miles Mosley qui al Soundcheck di Radio 24. Vi ricordo che domani torniamo su questi schermi, sempre qui a partire dalle 19:15, un'ora di grande musica. Ci sarete, Oscar, o non mi abbandonate? Sì, ci saremo. Dai, va bene. Intanto io non posso non ricordare a tutti gli amici che mi stanno scrivendo i primi appuntamenti con i concerti che affronteremo con il progetto Fans Low Ride e Sounds for Children per l'UNICEF, band eccezionale. Sono fiero di questi eccellenti protagonisti della scena musicale italiana e tra l'altro in questa occasione si metteranno anche a disposizione di una bellissima voce direttamente da New York, da Brooklyn. La formidabile Joanna Titters sarà con noi per suonare i brani di Fans Low Ride, ma anche altre cose che mi porto dietro da tempo. Quindi pronti per i primi concerti, il calendario si sta componendo, quindi il management, per evitare di farci fare come noi diciamo il giro di Peppe, no? Sì. Il giro storto, quindi le date poi le diremo tutte con l'ordine giusto, però per ora saremo al Bad King Club il 29 marzo a Perugia, il 31 a Cava dei Tirreni nel club uno dei miei preferiti, il Moro da Gaetano Lambiase, il 1 aprile a Mattinata, quindi vado a casa praticamente a suonare, si chiama Mad Mall Cultural Store. Che nome! Il 5 aprile a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, lì vi aspetto. Certamente, ci saremo. Non vi faccio neanche comprare i biglietti. Vi do i pass. Tu lo vuoi comprare? Io lo voglio comprare. E io ti voglio dare il pass, Tromba, perché sei amico mio. No, noi siamo... Dai, ti voglio far entrare nei camerini dell'Auditorium Parco della Musica. Va bene. Va bene? E dai. Perché? Chi c'è nei camerini del Parco della Musica, oltre a te? Ci sono io. Ah. C'è Joanna Titters, perché ecco. Lui sbava e la vuole vedere da vicino ecco. Com'è fatta quella ragazza, bellissima. 7 aprile Ferrara al Jazz Club di Ferrara, Torrione, e quindi l'8 di aprile chiudiamo al Blue Note di Milano. Naturalmente potete già prenotare la vostra partecipazione nei vari siti dei club e dei teatri. Detto ciò, dopo questo spot, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, però abbiamo ancora un Miles Mosley che ci scappa con Young Lion. Grazie a Francesco Trombe e a Silvia Barba. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao, ciao. Buona serata.